Ciao a tutti cari amici di YouTube, io sono Carlo e oggi siamo al parco della mia città, un bellissimo parco naturale. Qui con me c'è Rocky ed è il motivo per cui ho in mano un frisbee.